sono sempre contento quando qualche mio amico si trova una donna. Però poi mi spavento quando vedo pissu sotto la gonna. Ma perché tutti a me mi ha un po' chi? Quando ho visto che mamiava già sapeva che finiva così. Ma in momento mi mullava per fortuna bello e corniu quello lì. E mi ha un po' te la la oh a vedere chi. Ehi hey, una volta mami oh, ehi hey, una volta malumo, ehi hey, una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là. Ehi hey, ehi hey, una volta mami oh, ehi hey, una volta malumo, ehi hey, una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là. Ehi hey! Comunicare, ma coi gesti ule in vero casin. Mi ha un po' che brutta fare, su finio in te la situazione du belin. Cose faccio, dunde a mio, dunde vegiu. O a chi che dico tutto, e così poi la colpa non è più la mia. Però mi non so così brutto, ne approfitto per una botta, poi me ne vago via. Vieni chi, andiamo via, andiamo a casa mia. Ehi una volta ma mio, ehi una volta malumo. Ehi una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là. Ehi hey, una volta ma mio, ehi una volta malumo, ehi una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là. Vieni chi, andiamo via, andiamo a casa mia. Ehi una volta mami oh, ehi una volta malumo, ehi una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là. Ehi una volta mami oh, ehi una volta malumo, ehi una volta ma bacio mio po' che bagascia che ha trovato quello là.